buongiorno. Beh, Sassaresi, oggi non c'è nessuno? Non c'è nessuno in radio? KK? Sentite qua, Luciano? Hola, c'è qualcuno qua? Maria, e manco una vozimia con noi. Ah, ciao Marino, e beh, sto a posto. porra. Con che sei maracchino te devi fare orecchio. Ma che c'è Luca Flip? Ehi, uia. Stavole. La mazza te ne scende, ecco. Non conosciamo ancora la voce mia, va, con chi su, eh? Ma che c'è un apparato nuovo? No, no, apparato genitale. Cosa ci ha attaccato il microfono da tavolo? Non va bene. A buglia, certo. Non andava. Cos'è? A 6 l'attacco? No, a 4. Aspetta, ti faccio sentire il microfono che mi ha mandato lui, aspetta. Ma questo qua è il microfono suo, non è suo originale, però è del president, com'è? Un microfono normale. Comunque già è buona la radio. Ah, va bene, sì. A voglia. Certo, è il microfono suo originale, si può dire. Diciamo di sì, dai. Qui stamattina l'ho aperto, gli ho messo il led. C'era la lampadina brutta, gialla, se è a posto, la lampadina bianca. Nello smitter? Sì, sì, sì. No, già è così. Io sto guardando se ci riesco a cambiarla. Cosa avevo, un diploma? No, è un po' credo complicato il divisore viri. E che baracchino è? Il president. Ma è un giugu, Ma te è un giugu, ma a me è un po' credo difficile, dico. Perché c'ha i fili nascosti. Ma una volta tu le sfili il coso, come si chiama? Smitter, poi ne stacchietti la lampadina, come ho fatto io, mica l'ho smontato tutto. Cioè, ho smontato la mascherina, ho levato tutte le manopole, quello sì, il frontalino. E poi una volta che arriva la carrozzeria del baracchino, ne sollevi il coso e ne tiri la lampadina fuori. E li saldi i fili e li ributti dentro la lampadina, quella nuova. Dai, chissà cosa, no? Sì, già ce l'ho la lampadina a LED. Solo la lampadina è cambiato, o gli hai messo un condensatore o qualche cosa, no? No, mi ha dato Luca, dai, 3 LED ci sono, però ne sto utilizzando 2 perché non ci sono tutte e 3. L'ho piegato uno, ci sono 3 LED con un dio, con una resistenza, di quelle piccole. Però non le classiche resistenze, quelle classiche, no, sono quelle che sembrano Modibus UD. Non dico quanto è un granello di sabbia, ma quasi, dai. Sì, ho già compreso quali sono. Sono quelli rotondi con due aspirali. No, sono quelli piccoli neri, rimangono, se vuoi ti mando la foto, giusto per farti un'idea. Sono quelli quadrati rimangono, che vengono un bel male a saldarli pure. Io nel coso ci ho messo diversamente. Sì, vabbè, c'è andato a avere un attesi. Allora, andiamo in negozio e lo lascio così. Vabbè, finché va, futtidine, già andava. Infatti, finché così va così. Tutto bene, sì. Sì, tutto bene, quel che va bene. Quello va bene, e dopo va, purtroppo. Tira giambi. Forse la giambemmo. Come mai sei rimasto senza macchina? Perché c'era la mia 25. Così è. Ce n'era un'altra che la stava regalando la macchina. E poi io sono andato a chiedergliela e l'ha data al figlio, se l'ha presa al figlio. Ma prendersi la macchina un attimo, camparla, eh. Sì, sai bug di assicurazioni. Lo so, purtroppo è un casino. È quello. Il gusto. No, ma non mi interessa. Per ora come ora, se avessi un lavoro, tanto quanto, siccome lavoro non ce l'ho, lavoricchio, là. Non mi interessa per il momento. Già c'ho la moto. Allora, andava. Cosa vuoi fare? Casino. Non fa, dai. Stavo a prendere un coso qua, devo acquistare un touch screen, però su eBay non c'è. No. Com'è questo touchscreen, come si chiama? Un vetrino di un tablet. Un vetrino di un tablet? C'è su Amazon, ma su Amazon sono iscritto io, capito? quello è il problema, bisogna essere iscritti e devi pagare. Però c'è gabbonato il gioco. Cosa devi pagare? Ogni anno devi pagare per essere Amazon Prime. Ma fanno consegne veloci? Secondo il coso sì, se no devi aspettare. E quanto paghi? 26 mi pare, se li prendono loro direttamente. Che aspetti sì, io ho già comprato su eBay, già si ripiano i matessi. E vabbè, però potresti fare lo stesso anche se non sei iscritto. Ah, potrei fare lo stesso? Sì, si può fare lo stesso. Guarda che c'è, tu metti, qua ti chiedono sotto il coso, più sotto c'è cliente non registrato. Adesso non mi ricordo, c'è l'account, adesso non mi ricordo com'è. Beh, se c'è l'account ci potresti entrare e ordinartelo. Un giorno ti ordino il coso io, il vetro, questo tablet qua, e glielo cambi. Un giorno però. Che tablet è? Gliel'avevo già cambiato io, è l'altro dai fascia, me ne butti. Ma che tavolo c'è, Samsung? No, del Nokia mi pare che sia. Ma non è che è Mediacom per caso? Forse è Mediacom. Non c'è problema. Tira via, già ci hanno vado io. Ne torna da fare in terra, dunque torrai fasciato. Si facciano subito. Già non c'è fretta, già ce l'ha un altro, quindi non c'è fretta. A male non vi si fare. È stato che stavo contattato il tipo di eBay, praticamente che ancora mi hanno rimborsato. Ho chiamato, mi hanno detto che se non ti arrivano entro questi giorni bisogna chiamare questo numero. La visa, dai, dalla Poste Pay. Tu casino. Perché no? C'era il tipo che ancora se ne ha fottito. Ecco cosa è. No, sul conto ci sono già i soldi, sul conto PayPal ci sono. È che non mi hanno accreditati nella mia carta. Ah, sul conto PayPal ci sono e non riesce a averli. No, nella Poste Pay non ci sono, perché io c'ho la Poste Pay registrata a PayPal, capito? Mi arriva nel mio al codice della carta. E allora la banca si è tarda a metterli, ecco cosa è. Dalla Poste Pay ci passa un pochino. Ma cazzo, boh. Quanto ti deve ne durrà? 20, 30 euro? 46. Vabbè, da cifra, cazzo. Allora già, la PayPal che ci mette parecchio la transazione tra coso e Poste Pay ci mette un pochino. Balle, ma a me ci hanno messo 4 giorni, figurati un po', dipende dalla banca, dipende. Infatti, è quello. Perché la Poste Pay delle poste, invece la PayPal è della banca, quindi è la banca che deve mandare. La banca, la PayPal, là. La banca è sempre la banca. Aspettiamo, se vuoi ti dica. C'è altro di balle. Io ce l'avevo la PayPal, è scaduta e non me l'hanno rinnovata loro, e allora l'ho lasciata perdere, mi sono fatto quella della Poste Pay, quella nera. C'è dalla Cina questo touch, ma vi buoni mesi e mesi da arrivare. Si è giochinato delle mascherine, dovevano arrivare ieri e non sono giunti. Pensa un poco, ho contattato Amazon perché non c'è neanche il corriere di quello lì. No, dove mi hanno mandato il coso. E non c'è neanche il corriere. Allora ho detto, se non arriva rimborsiamo i soldi. Tu pensa che arriva dalla Cina dal 15 giugno al 7 agosto, pensa a te. Da mesi e dezzenni, due mesi, e dezzenni. Costa 10 euro in meno, ma se ne affutte, dopo due subito pago di più e non me ne affutti nulla. E infatti è così che si deve fare. Siamo di balle, va. Giulinato, quattro mascherine che a coppia sono due mascherine in una busta con i filtri e me le dovevo consegnare ieri e non me ne hanno consegnato. Ma come mai tu? Dice che sono in ritardo. Sono in ritardo, sono ancora. Bello casino, un casino, quando succedono queste cose, guarda. Sì, mi ha detto, dice, di aspettare ancora una settimana, se non arriva me le rimborsano loro, Amazon, i soldi. E adesso su Amazon è un casino, è un casino. Sì, infatti, conviene agitare, conviene. Conviene aspettare e guardare. Io l'altro giorno, la settimana scorsa, ho ordinato un gioco a mia nipote, l'ho ordinato di mercoledì e mi è arrivato venerdì. Quando ce l'hanno subito te lo mandano subito, ma quando non ve devi agitare. Allora, mi sa che non mi ricordo le mail di Amazon, cazzo. Aspetta che te lo do io. No, le mail, Dora, le mail. Per accedere, non mi ricordo se a lasciarvi le segni, casetta. A password, non le mail. No, mi chiede, email e password. Allora. Si è verificato un problema. Si è verificato un problema. Non ce l'hai scritto in qualche posto, perché ce lo devi avere scritto, io me la giubuccio il telefono. Ma cosa vuoi ti dica? Allora, ho diminuito la polvere installazione del mio account. Sarà due mesi, non te ne ammenti. No, no. Che palle. Allora, servizio clienti. Mi dice qua, si è verificato un problema, ci dispiace, è impossibile identificare l'account unicamente con le informazioni fornite. Ma la password tu la puoi sempre cambiare, hai capito? Perché ti chiedono, con le email ti chiedono anche la cosa, ti chiedono, ti fanno delle domande e la cambi la password. No, se non vai le email, non da va. Vabbè Luca, dai, ci sentiamo, che metto a mangiare il cane. Ci sentiamo alle prossime, anzi stasera va, se tutto va bene, se vi gioco. Ok, ciao Luca. Ciao, ciao, buon pranzo, dai, ciao, ciao. Altrettanto, ciao. Essere malato.